Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione e Paolo Corleone in regia. 800240024 è il vostro numero verde da qui fino alle 19 per discutere insieme dei temi sportivi di oggi. È una giornata in cui una volta di più si sta sottolineando la differenza tra il Milan e la Juventus. Il Milan sta vincendo 2-0 con il Lecce, ha segnato dopo soltanto 7 minuti con Nocerino su bellissimo assist volante, no look pass di Ibrahimovic. Lo stesso Ibrahimovic ha raddoppiato al 20° della ripresa. Se si può trovare un difetto, il fatto che il Milan non abbia chiuso prima, secondo me, questa partita, che ha giocato davvero molto bene, ma tra poco ci facciamo dire tutto da Dario Ricci, che ha giocato davvero molto bene, quantomeno nella prima mezz'ora. La Juventus sta giocando una delle sue migliori partite di quest'ultimo periodo a Genova, ma non riesce in alcun modo a trovare la via del gol, anche scalognata abbastanza, soprattutto nel secondo tempo, e traversa di Vucinic, palo spizzato dallo stesso Vucinic, palo pieno colpito da Pepe su punizione di Pirlo, e poi un gol annullato a Pepe in fuorigioco, e c'era in questo caso l'offside. Juventus che continua ad attaccare, che ha rischiato, come sapete, oggi difesa bianconera ridotta ai minimi termini con questa coppia Vidal Cáceres assolutamente improvvisata. Ha rischiato moltissimo in apertura su Palacio, ha rischiato qualcosa con Girardino, però una Juve che meriterebbe il vantaggio, insomma, vantaggio che però non arriva. Quanto agli altri campi c'è non tantissimo da dire in realtà. È appena stato trasformato in due tempi, per la verità, un rigore dal Siena a Cesena, rigore netto per il fallo di Ceccarelli su Calaiò, rigore d'espulsione, in questo caso decisione giusta di D'Amato, fallo molto duro da ultimo uomo. Sbaglia Martigno, tapin di Brienza dopo che Antonioli aveva spedito la palla sul palo, si è discusso sulla posizione di Brienza, francamente io non la so valutare dalle immagini che ho visto. Quindi c'è il Catania che sempre su rigore conduce sulla Fiorentina 1-0, al 13° Gamberini abbatte Berghessio, 13° della ripresa, rigore trasformato da Lodi. È 1-1 parziale tra Atalanta e Parma, nerazzurro in vantaggio con Manfredini al 5° in inedita rovesciata per lui che è un difensore. Bello però il gol comunque, e altro difensore, cioè Paleta al 10° della ripresa di testa su cross di Jaime Valdés. Pareggi conti 1-1, sono tutti naturalmente risultati parziali. Altre notizie che arrivano dalla domenica dello sport ve le do subito, poi allarghiamo il discorso ad altri sport, in programma anche abituale collegamento più tardi con Giacomo Bagnasco per parlare della figuraccia dell'Italia di ieri del rugby in Galles. Ma comunque, oggi sono arrivati questi altri risultati dalle ultime nevi della stagione. A Kranjskogora c'era uno slalom speciale e bravissimo Christian Deville, secondo alle spalle di André Mirer. Poi invece comincia la stagione del ciclismo, quinta tappa della Tirreno Adriatico che è andata a Nibali, non è cambiata invece la maglia di leader della classifica che resta sulle spalle di Horner. Ma torniamo subito al calcio per andare a salutare Dario Ricci che oggi è a San Siro. Sì, buon pomeriggio Carlo, siamo al 33° di gioco qui a San Siro, Milan in vantaggio per 2-0 su Lecce nel momento in cui entra El Shaarawy che sostituisce Robinho autore della solita prova volitiva e sostanziosa direi in attacco, ma oggi il grande protagonista, come giustamente hai già sottolineato tu, al nome di Zlatan Ibrahimovic, autore di un assist di un gol, l'assist per Nocerino al 7° di gioco, come ricordavi da studio. Il tiro poi del centrocampista milanista, arrivato ormai a 9 gol in stagione, è stato deviato in modo decisivo da Miglionico alle spalle di Benazzi. Ibrahimovic che poi ha sfiorato il gol personale al 19° del primo tempo con uno splendido pallonetto praticamente dalla linea di fondo che è uscito veramente di pochissimo, sarebbe stato un gol da urlo che invece poi è arrivato al 20° della ripresa su tocco di Emanuelson, molto simile l'azione a quella del primo gol. Ibra dal limite dell'area di destro ha battuto Benazzi e ora proprio Ibrahimovic solo davanti al portiere del Lecce, a tu per tu, chiuso però in calcio d'angolo da un ottimo recupero di Brivio. Tra l'altro Milan vicino al 3-0 pochi istanti fa con Emanuelson su tocco di Robinho, velo di Ibrahimovic, Emanuelson davanti a Benazzi, anche in questo caso il portiere del Lecce si supera e poi con l'aiuto di Miglionico libera in calcio d'angolo. Un Lecce che malgrado le tante assenze, ha giocato soprattutto nel secondo tempo una sfida orgogliosa e ha creato qualche problema però solamente nel primo tempo, in occasione di uno splendido lancio di Oddo 40 metri per Muriel, il sinistro dall'altezza dell'area di porta alto sulla traversa. Carlo, ora 35esimo di gioco, Milan 2 Lecce 0. Bene Dario, ci sentiamo dopo. Adesso ovviamente voi potrete dire: ma perché queste cose le fa con il Lecce, non le fa in Champions League e poi si arrabbia? E potrete anche rispondervi da solo, oppure Ibrahimovic potrebbe rispondervi: mi fanno giocare con tre punte, me tre punte no piace, e quindi rispedire la critica al mittente. Insomma, sono queste le discussioni. Fino a che punto vale la pena accontentare il fuoriclasse svedese? Ditemelo voi, 800240024, numero verde. Intanto c'è il raddoppio del Siena a Cesena con un gol di Bogdani, palla sulla traversa e poi nettamente dentro. Non ci sono grandi discussioni in questa situazione, perché la palla era nettamente entrata in porta in maniera del tutto chiara, non ci voleva Buffon, insomma. Quindi marchiamo il gol di Bogdani per il raddoppio del Siena sul Cesena. È tempo di Napoli. Io saluto e ringrazio Raffaele Auriemma, voce nota di Mediaset Premium. Ciao Raffaele. Ciao, buongiorno a tutti. Tutti in partenza per Londra, grande esodo. Sì, penso che già da oggi sia cominciato, soprattutto per quelli che non hanno il biglietto. Quanti saranno? Quanti saranno, secondo te? Sicuramente il doppio di quelli che ce l'hanno. Diciamo che ci sarà una vera e propria invasione, qualcuno ne approfitta anche per farsi una gita a Londra e sta lì 4-5 giorni. Se riesce a prendere un biglietto e entrare, bene, altrimenti se la vedrà in un pub, in un ristorante, insieme ad altri tifosi del Napoli, che hanno già annunciato una mini invasione pacifica in quel di Kensington per martedì e mercoledì. In maniera tipicamente inglese, perché sai bene che i tifosi dell'Inghilterra comunque seguono soprattutto la loro nazionale anche sprovvisti di biglietto, perché loro vogliono esserci, e i tifosi del Napoli vogliono essere a Londra quella notte. No, c'è da dire che insomma qualcuno scrive che in questo momento solo Real e Barcellona hanno la facilità di gol che ha il Napoli. Sì. E tra l'altro lo stesso Guardiola evidenziava che oggi l'unica squadra che non vorrebbe affrontare in gara secca è proprio il Napoli, perché lo dice lui, lo dicono in tanti, lo stesso Prandelli lo ha testimoniato più volte, dicendo che il Napoli è l'unica formazione che in una partita secca, neanche sulle due sai andate e ritorno, proprio sulla gara secca, la finale, il Napoli può battere chiunque. Quindi questo è un dato di fatto, anche se questa squadra però ancora qualche limite, una squadra a doppia velocità, perché se dal centrocampo in su vale il Barcellona, dal centrocampo in più non si può dire altrettanto. No, ma forse neanche dal centrocampo in su, dai. No, nel senso che comunque è una squadra che ha grande facilità in questo momento a fare gol. E devo dire, bravo Mazzarri che ha portato il motore a pieni giri nel momento giusto, devo dire. Ma io parlo anche di uomini, perché la coppia Cavani-Lavezzi, per esempio, è quella più prolifica del campionato. Sì. Nessuna in Serie A, neanche il Milan, con Ibrahimovic e Robinho, può vantare lo stesso numero di gol. Sì, Napoli ha anche gli uomini per poter dire di essere una squadra competitiva in Europa, perché come mai poi quei tre calciatori li vogliono tutti? No, chiaro. Tramsi, Cavani e Lavezzi li vogliono tutti, quindi qualcosa vorrà dire. Io fossi Juventus ci farei un pensierino, avendo i soldi. Sto guardando la Juventus immalinconirsi sull'ennesimo pareggio 0-0, ultimi 5 minuti concessi anche a Del Piero, un po' prima magari no, non so, ditemi voi, però tant'è, il contrario del Napoli, la Juventus che fa gioco, che ha rabbia, che ha spunto, però che non riesce a sbatterla dentro davvero mai. Quanta paura fa invece l'uomo nero Drogba, che ieri ha segnato il suo 100° in Premier League? E poi, tu avresti preferito il Chelsea con Villas-Boas in panchina o ti va bene Di Matteo? Va bene anche Di Matteo, e non è che cambi chissà che. Fosse arrivato uno da fuori, magari poteva dare una scossa o delle innovazioni. Di Matteo era uno scelto da Villas-Boas. Mi risulta che comunque dei rapporti non sono idilliaci tra lui e alcuni calciatori dello spogliatoio, per cui cambia poco. Sì. D'altra parte è vero che il Chelsea adesso si è rianimato con queste due vittorie, ma è andato a vincere contro una squadra di Serie B, il Birmingham, come spareggio per andare avanti nel Cup, e poi ieri ha battuto lo Stoke City, che non mi pare essere né il Real Madrid, certo, e neanche il Barcellona. Certo. Hai sentito cosa ha detto oggi Maradona? Sentiamolo insieme. Certo. Non sono mai stato condannato dalla Cassazione e voglio chiarire, per trovare una pace finale con il fisco e con tutta l'Italia, mettendo fine a tanti equivoci ed ingiustizie fatte contro di me. Mi hanno impedito di tornare in Italia fino ad oggi. E spero che esista la giustizia e la legge è uguale per tutti. Il mio desiderio è quello di ritornare in Italia ed abbracciare i napoletani e a tutti i miei amici che vivono in Italia, perché mi hanno fatto perdere 20 anni, tanti anni d'amore. È giusto pagare le tasse, il fisco italiano deve essere umano con i cittadini. Io non sono mai stato un evasore fiscale ed ho sempre pagato tutte le tasse che conoscevo. Raffaele poi scendeva dall'aereo e gli pignoravano gli orecchini, no? Ti ricordi? Anche i Rolex, anche... una partita di calcio di beneficenza. No, ma vuole pagare per venire anche lui a vedere sto Napoli. Ma non può pagare 38 milioni di euro però, guarda che è un assurdo. Io credo che ci si sia un po' accaniti nei confronti di Maradona. Pare che sia un po' esagerato quello che si è fatto con Diego. Lui vuole pagare, ma è il giusto. Sì. E è ovvio che se non ha pagato negli anni scorsi, non perché lui non abbia voluto, ma perché non sapeva manco di dover pagare quei soldi, perché c'è stato tutto un disguido tra comunicazioni ricevute dal Calcio Napoli e mai spedite a Maradona. Quindi, ma arrivare a 38 milioni significa non volerli i soldi da Maradona, perché come fa a pagarti 38 milioni? Ce ne vogliono di orecchini, mio caro. No, però sarebbe bello in questa stagione, insomma, vabbè, al di là di tutti questi suoi guai da sistemare, sarebbe bello poterlo riabbracciare, magari averlo lì in una notte di Champions, sai, hai sogni, non c'è mica fine. Oggi come oggi, magari vado anche un po' controcorrente, però Maradona a Napoli potrebbe avere anche effetti non proprio positivi. Dici? Perché il Napoli di oggi è diverso da quello della sua epoca. Certo, non c'è dubbio. È un Napoli programmato, ragionato, che viene calcolato al centesimo in ogni suo movimento contabile, quindi Maradona era proprio l'opposto, ogni esagerazione era del Napoli di Maradona, quindi sicuro, oggi sicuro. Non è più così. No, ma è anche una squadra del 2012 contro una squadra di fine anni 80, primi 90. Raffaele, buon viaggio, grazie. Grazie a te, buon bocca al lupo, in bocca al lupo, conserva la voce per Stamford Bridge. Ci fermiamo per il traffico, nessun gol da segnalare, sempre 0-0 a Genova per la Juventus contro il Genoa e il Milan che si allontana battendo il Lecce 2-0. Siamo nel finale, minuti di recupero a Marassi, 45-35, 4 minuti di recupero concessi, punizione per il Genoa con un contatto in area, genoani che protestano, in particolare Marco Rossi, ma Rizzoli fa proseguire, non sono assolutamente in grado di valutare questo contatto che ho visto solo in campo larghissimo, quindi non saprei che dirvi. Rivediamolo, il contatto tra Marco Rossi e Andrea Pirlo, che no, mi pare che vada sul pallone Pirlo, poi la palla carambola sul piede di Marco Rossi, il contatto c'è, ma mi pare che abbia visto bene Rizzoli in questa circostanza in cui di micro episodi ce ne sono stati molti. In realtà, ma soprattutto rimane questo 0-0 scritto sul tabellone, segnapunti che lancia il Milan che sta vincendo 2-0 come detto prima, contro il Lecce, gol di Nocerino e di Ibrahimovic, un gol per tempo e un Milan che dà grandi segnali di salute nel giorno in cui il grande capo Ibra è stato accontentato perché... come sapete gli hanno levato di torno una punta, nel caso El Shaarawy, con la formula che preferisce, Robinho a danzargli intorno ed Emanuelson a fare un po' il Boateng. Altri parziali, il Cesena perde 2-0 con il Siena, i gol di Brienza al 28esimo e Bogdani al 36esimo. La Fiorentina è sempre sotto 1-0 a Catania per effetto del rigore trasformato da Lodi al 13esimo. 1-1 tra Atalanta e Parma, quinto Manfredini, decimo Paletta. Siamo nei minuti di recupero, si giocherà ancora per due minuti a Genova, ultimi 2 minuti di speranza. Si è visto in campo anche Elia oggi, ben prima di Del Piero, visto in campo senza incidere, mi pare. Attenzione, bella girata di Boriello, pure lui sbucato dalla panchina, ma Fre blocca senza troppa difficoltà. C'è in campo anche Del Piero, svuotato l'arsenale offensivo da parte di Alessio, che oggi sostituisce lo squalificato Antonio Conte. 800240024, numero verde. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Allora, figura Barbina, dicevo prima, dell'Italia del rugby in Galles, o no? Ma guarda, secondo me quello che hai detto ieri è giusto, un primo tempo che può essere anche da 7, un secondo da 4. Tra i vari commenti c'è quello di Alessandro Zanni, che è il mio capitano, come ti avevo detto, secondo me è una figura molto adatta per fare il capitano anche della nazionale, senza niente togliere a Sergio Parisi. Sarà uno che parla poco, ma quando parla dice delle cose essenziali, concrete. Ha parlato di un passo avanti in difesa e due passi indietro in attacco, quindi questa squadra è una squadra per adesso da coperta corta. Sicuramente ha difeso molto bene contro una squadra che altrimenti ti può massacrare, segnare anche 5-6 metri. Giacomo, la sensazione è sempre quella che gli avversari, insomma, cerchino di risparmiare fatica nel primo tempo, no? Quindi ti lasciano in vita nel primo tempo, poi nella ripresa accelerano e non li becchi più. Per quello può essere sicuramente, voglio dire, ormai si studiano anche al microscopio le singole giocate in touche. Figuriamoci se questa non è una caratteristica che è stata esaminata e presa in considerazione. Dopodiché, se si guardano i dati statistici, l'Italia ha fatto il doppio dei placcaggi di quelli che ha fatto il Galles, vuol dire che è stata proprio usurata, che si è consumata a difendere, alla fine probabilmente non ne aveva più. Devo dire che in parte qualcosa del genere è successo alla Scozia, che sicuramente finora ha espresso un gioco migliore dell'Italia in questo torneo, ma è ancora a 0 punti. Ieri ha giocato un grandissimo primo tempo contro l'Irlanda, avrebbe forse anche meritato di essere in vantaggio, però in realtà ha chiuso il primo tempo in svantaggio 22-14, e nella ripresa a un certo punto non ne aveva più, l'Irlanda ha fatto altri 10 punti. Insomma, è un torneo che non ha portato finora delle grandi novità. Le due migliori al mondiale stanno andando, europee, stanno andando meglio delle altre anche adesso, e le due peggiori, cioè le due che non erano passate ai quarti, Italia e Scozia, ancora una volta giocano per evitare il cucchiaio di legno una contro l'altra in uno stadio olimpico che si annuncia esaurito. Sabato prossimo. Sì, stadio esaurito e ultimo pellegrinaggio della speranza per il rugby italiano, abituale pellegrinaggio della speranza. Grazie Giacomo, ci sentiamo alla prossima. Grazie Giacomo Bagnasco. Adesso andiamo con la cronaca del finale delle partite. Una è già terminata ed è quella di Bergamo, l'1-1 tra Atalanta e Parma. Ricordo i gol di Manfredini dopo 5 minuti di gioco e il pareggio di Paletta al decimo della ripresa. Si sta ancora giocando a Catania, se non sbaglio, sull'1-0 del Catania con la Fiorentina. Si sta ancora giocando a Genova, 0-0 tra Genoa e Juventus. Vedo le immagini, si sta certamente giocando a San Siro. Allora torno per le ultimissime battute da Dario Ricci. Mancano veramente una ventina di secondi al fischio finale di De Marco, 2-0 sempre per il Milan, per effetto dei gol al settimo di Nocerino, al 65esimo di Ibrahimovic, ed eccolo il fischio finale. Il Milan batte il Lecce per 2-0. Da sottolineare che negli ultimi minuti di gioco Milan vicino al gol in almeno altre due occasioni, un diagonale di El Shaarawy al 90esimo e un colpo da un paio di metri, seppur molto depilato sulla sinistra, di Ibrahimovic in entrambe le occasioni. Splendida risposta di Benatti, che è stato sicuramente il miglior uomo del Lecce. Per quanto riguarda il Milan, beh, se per mettere un po' di pepe al discorso, contro una piccola si è rivista ancora una volta la grande stella di Ibrahimovic, migliore in campo. Milan 2, Lecce 0 qui a San Siro. Solita impressione, grazie Dario, ci risentiamo dopo dagli spogliatoi. Solita impressione del gigante che gioca gioca nel cortile dei bambini, quando è in campionato, quando ha la luna giusta, quando sono queste partite che non sono partite facili, intendiamoci. Vale il discorso, se la Juventus, molto ipotetico, avesse avuto Ibrahimovic al centro d'attacco oggi, avrebbe vinto a Genova? Beh, vista la mole di gioco e le occasioni create, viene da dire di sì, ma ovviamente si tratta solo di un giochetto. Vi do i finali, poi la classifica, perché è tutt'altro che un giochetto questo vantaggio ormai dei rossoneri sulla Juventus. Allora vi chiedo, parliamo di fuga? Prima fuga stagionale, più 4 dei rossoneri sulla Juventus, Milan che si alza sui pedali, ditemelo voi, 800 24 00 24, finali dunque di oggi in Serie A, in attesa dei due posticipi di stasera, Lazio-Bologna e Novara-Udinese, Atalanta-Parma 1-1, Catania batte Fiorentina 1-0, a Cesena Siena batte Cesena 2-0, 0-0 tra Genoa e Juventus, Milan batte Lecce 2-0, classifica Milan 57, Juventus 53 e poi vengono la Lazio che gioca stasera 48, Napoli e Udinese 46, Roma 41, Inter 40, Catania 38, Palermo e Chievo 34, Atalanta, Genoa 33, Siena, Fiorentina, Bologna 32, Cagliari e Parma 31, Lecce 25, Novara, Cesena 17. A proposito, il Cagliari sta per cambiare allenatore, ma ne parliamo dopo il GR. Può essere il vento della fuga oppure il sibilo del pallone di Ibrahimovic, calciato fortissimo per il gol del 2-0 del Milan sul Lecce. Mentre la Juventus adesso deve rincorrere con fatica, non potrebbe essere altrimenti quando non vinci dal 18 di febbraio, quel 3-1 in casa con il Catania e poi pareggi 4 volte consecutive in ordine sparso con Chievo, Bologna, Genoa e Milan come ben sapete. Adesso il Milan è a più 4 sui bianconeri, che peraltro oggi hanno giocato una signora partita, a mio giudizio, a Genova, con difesa rimaneggiata, come sapete, con l'improvvisata coppia centrale Vidal-Cáceres, rischiando anche qualcosa, se vogliamo, con Palacio e con Gerardino, ma una partita che la Juventus ha fatto di tutto per vincere, tutto tranne il gol, e vi pare poco. Ibra con Sky. Sono contento di mia stagione fino adesso e spero di continuare. La Juve ha pareggiato, adesso il Milan è a più 4. Com'è essere passati dalla parte di quelli inseguiti, non più gli inseguitori? Ah, ma non è ancora finito, manca tante partite, adesso un po' a vantaggio, ma ogni partita può succedere tutto. Per il momento siamo 4 in più, ma manca tante partite. Allora oggi non ti arrabbierai con Allegri? Con chi? Con Allegri. Perché? Dopo la partita di Champions League eri un po' arrabbiato, oggi non ti arrabbierai. Ah, tu hai visto che ero arrabbiato? Così dicono, non è vero? Sì, ma dicono tanto anche, parlano tanto. Quindi non è vero? Sei uno di loro che parlano tanto. Oggi quindi sei sereno, sei felice? Sono sempre felice. Grazie. Sono sempre felice, lo dice con la faccia di chi ti mangerebbe. Non, per fortuna era una gentile collega, avrei voluto vedere questa intervista con un giornalista d'altro sesso, insomma, con Ibra. Sono sempre felice. Luca da Torino, anche lei è sempre felice, come Ibrahimovic? No, io sono molto esterefatto. Esterefatto addirittura? Sì, perché questi campionati, sembrava che tutto, qualche stampa, un certo tipo di stampa, avesse messo un bel mattone sopra, scommesse e accessori vari. Ma ecco, ho sentito un'espressione secondo me molto giusta, che certe squadre che sponsorizzano le catene di scommesse proprio dovrebbero chiudere, perché questo campionato andrà a vincere il Milan, anche perché è la squadra comunque più forte, se sapeva da agosto così. Sì, io guardi, però io sto facendo un po' fatica a seguire. È un campionato che il Milan ha comprato? Un campionato falsato, come da cosa? L'anno scorso. Da cosa? Beh, insomma, è violentato da queste scommesse. Diciamo, ma quali scommesse? Le scommesse di giocatori che... Stanno indagando loro signori, cioè se adesso cominciamo a dire anche questo è falsato, insomma, mi sembra che ci portiamo un po' avanti, che se vogliamo dire che se sentiamo queste storiacce, che peraltro sono storie insomma di basso impero, tutte da provare, da dimostrare, in cui c'è molta millanteria, in cui si tratta di capire che cosa c'è dietro, che cosa c'è dentro, eccetera. In cui ci sono molte chiacchiere, molte ambizioni di protagonismo, certamente ci sarà anche qualcosa di vero, però se cominciamo a dire vabbè, questo campionato è falsato perché tanto scommettono tutti su, vabbè, allora possiamo anche cambiare discorso e parlare di boccette. Insomma, io mi limiterei a quello che vedo sul campo. Mi sembra un campionato invece sul campo e per quello che sto vedendo ancora estremamente equilibrato e a mio parere divertente. Poi magari, non lo so, si divertiranno di più in Spagna con l'egemonia tra Barcellona e Real Madrid, o in Inghilterra, dove tra l'altro oggi lì sì c'è stato un sorpasso al vertice tra le due squadre di Manchester, con lo United che ha battuto 2-0 il West Bromwich, e mentre il City di Mancini, Italia allergica al Galles, ha perso 1-0 sul campo dello Swansea ed è più uno per lo United sul City. Non so se Vincenzo dalla provincia di Napoli vuole fare altri discorsi. Pronto? Ah, buongiorno Luciano. Senta, io ho fatto una mia riflessione. Secondo me, qual sarebbe il motivo che il giocatore dovrebbe fare? Truccare una partita e l'arbitro no? Perché, pronto? Sì, la sto ascoltando mentre guardo, riguardo il gol di Pepe in sospetto fuori gioco. Esatto, per questo. Sì. Ma perché dobbiamo parlare? Ma scusi, perché oggi vi è presa questa fissa delle partite truccate, del trucco, eccetera? Perché secondo me una squadra come la Juve non può in un campionato non avere un rigore a favore. Se c'è glielo danno, se non c'è glielo danno. Non ce lo danno, per l'appunto non ce lo danno. Ma oggi non ho visto rigoroni a favore della Juventus, Non ho visto rigoroni a favore della Juventus. Diciamo che già la Juve non segna per sì. Poi il rigore di non glielo danno. Un rigore sul mal di non glielo danno. La settimana scorsa la stessissima cosa. La settimana prima la stessissima cosa, non cambia niente. Pensi che così non va. Sì, così non va, sono state fatte e accese anche troppe polemiche sull'argomento, poi arriva il milanista che dice non le danno rigore, però non le danno neanche un gol che era dentro di mezzo metro, ma perché il gioco è questo, il gioco va così, e il gioco ci porta a sentire Allegri con Sky. Abbiamo fatto gol, abbiamo creato diverse occasioni, poi abbiamo un pochino smesso di giocare e dopo il secondo tempo invece abbiamo un po' ripreso a giocare, abbiamo fatto il raddoppio e abbiamo sprecato qualche occasione importante, e quindi sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Marco Nosotti. Voglio sapere un po', adesso nello spogliatoio c'è il presidente Berlusconi, cosa ha detto il presidente Berlusconi? Perché so che ha gradito che sia passato il turno in Champions League, però non aveva gradito il gioco. Oggi cosa ha detto? No, era contento della prestazione dei ragazzi, di quello che hanno fatto, e che è contento perché siamo in testa della classifica, abbiamo 4 punti di vantaggio e dobbiamo avere la forza di mantenerli fino alla fine. Ti vedo sorridente, quindi vabbè, non si è giocato col tridente, quindi Ibrahimovic era contento dopo, vi siete sentiti. Ma meno male ogni tanto venga fuori qualcosa, perché altrimenti che si noia, direbbe no? Sempre le stesse cose, che noia, infatti. Non è successo niente di grave, ma io credo che nelle squadre di calcio, come ho detto anche ieri in conferenza, delle discussioni tra allenatore e giocatore, è normale che ci siano, non è nel primo e nell'ultimo. Ilaria, però sai una cosa, non gli è andata giù, che questa sua squadra poteva forse fare qualcosa di più prima, chiudere prima la partita, qualche volta eravate un po' troppo leggeri, diciamo, siamo leggeri e non facciamo gol. Perché dopo i primi 20 minuti, quando le cose sembravano facili, abbiamo fatto prendere fiducia al Lecce, infatti abbiamo rischiato di prendere il pareggio su una palla lunga dove Muriel poteva far gol, e dopo le partite poi si complicano, ne sappiamo qualcosa, anche perché veniamo da un martedì, diciamo, dove abbiamo tribolato per passare il turno di Champions. Così Massimiliano Allegri. Per Paolo, il nostro ascoltatore, che manda un SMS a proposito della Juventus, oggi solo sfiga, 3 pali, un gol annullato per fuorigioco al limite, un rigore non concesso, eccetera, tutto vero, è cronaca, ma a parte quel rigore non concesso che mi è sembrato insomma, è stata trattenuta in area di Carvaglio su Matre, non così solare, non così gigantesco, non così evidente. Per il resto confermo, la Juventus, rigore o non rigore, avrebbe meritato di vincere questa partita, non l'ha fatto, anche perché a differenza del Napoli fa una fatica maledetta a trovare la via del gol. No, per la cronaca, nono gol di Nocerino in stagione, 19° di Ibra, sempre più capocannoniere. Io torno da Dario Ricci a San Siro in sala stampa, credo con un ospite anche. Dario. Sì Carlo, siamo qui con Franco Ordine, l'inviato del 2-0 del Milan sul Lecce, Nocerino e Ibrahimovic al 7° al 65° due marcatori, tra l'altro con due azioni fotocopie spiegate in entrambi i casi da Robinho. Nel primo caso è stato Ibrahimovic a realizzare lo splendido assist per Nocerino, il fibro deviato da Miglionico, e invece al 65° Emanuelson l'assist per Ibra. Ecco, 2-0 Franco, tanto per parlare di un giocatore a caso, Ibrahimovic, cioè, si potrebbe dire tornano le piccole e torna anche Ibra. Sì, no, insomma, diciamo che quello che mi pare che abbia, uno dei pochi che ha tenuto la spina infilata al posto giusto per tutta la partita, mentre invece mi pare che il resto del Milan l'avesse staccata, diciamo, dopo i primi 15-20 minuti. Quindi questa è la dimostrazione che questo è un giocatore che, al di là dei gol fatti, adesso sono già 19 in campionato, dal punto di vista squisitamente, diciamo, la sua incidenza nei confronti dei risultati del Milan è praticamente pari al 60-70-75%. Ecco, hai parlato giustamente di un Milan che dopo i primi 20 minuti ad altissimo ritmo ha staccato la spina, si è rivisto un Milan distratto, svagato, e Lecce che pur con molti assenti ha rischiato anche il pareggio con Muriel, seppur in un'unica occasione. Ma si può staccare la spina dopo la paura dell'Emirates Stadium? Questo è un po' il limite del Milan, un limite che forse è determinato anche dal fatto di aver fatto subito gol dopo 7 minuti, insomma, cioè questa è una squadra che... Cioè, non si può pretendere che sia perfetta, perché la squadra perfetta è quella che fa gol al 7° minuto e dopo 20 minuti, 25 minuti la chiude, così come era accaduto con la Juve, così come era accaduto con l'Arsenal. Obiettivamente, insomma, oggi se la sono presa un po' più comoda. Quanto pesa questo più 4 sulla Juventus? Quanto vale nella corsa scudetto? La fuga buona, oppure la Juventus che si è vista a Genova può ancora rimanere scia? Quanto pesa? Credo che pesi abbastanza. Quanto vale? Bisogna capirlo nelle prossime circostanze, perché allora capiremo bene se, perché insomma il Milan, teniamo conto che è sempre qualificato per la Champions, e qualcosa la Champions gli porterà via dal punto di vista delle energie e delle risorse nervose, e non soltanto nervose. Allegri, Ibrahimovic, pace fatta o tregua armata o cosa a questo punto? Abbiamo visto un Ibra comunque sempre abbastanza carico nel dopogara, no? Sì, però devo dire che secondo me non è che abbiano litigato, avranno discusso, come è normale che sia. Insomma, non mi sembra che ci sia il caso di ricorrere ad un avvocato matrimonialista, ecco. Allora, non è ancora il momento del divorzio, mentre è il momento dei saluti e dei ringraziamenti per Franco Ordine. Ecco Carlo, forse qualche secondo ancora da dedicare a Lecce. Lecce con molti assenti, che comunque ha fatto una prova orgogliosa nel limite delle possibilità qui a San Siro, ha sfiorato in un paio di occasioni anche il gol, il migliore in campo, però alla fine è stato Benassi, sempre puntuale e certo decisiva quella deviazione di Miglionico sul primo gol, che ha dato un po', che ha segnato, sì, un po' la sfida, ecco. Sì. Grazie Dario. Ci vediamo dopo. Grazie a Dario Ricci. Cosa sta dicendo ancora Allegri con Sky? Ordinario. Va bene, guardi, la lascio con questa copertina che le ha... Quale dedicato copertina? Vediamo un po'. Montoli dall'Oscar, no, di questa poi, stagione. Poi sì, vabbè, copertina di Artist con Allegri che litiga con Ibrahimovic, vabbè, tant'è. Ma secondo voi ha ragione o torto Ibrahimovic quando dice: insomma, io davanti preferisco avere spazio, giocare da solo. Tutti i torti non ce li ha, è sempre stata la sua forza, no? Quella di voler essere lasciato da solo al centro della battaglia. Si trova a disagio quando gli affiancano un compagno di reparto che si chiama Sharawi, che per carità pato, che non può vedere anche nemmeno per altre ragioni. Insomma, Ibrahimovic è un giocatore molto particolare che esige di avere su di sé il peso intero dell'attacco e gli spazi necessari per gestire questo peso. Quindi poi magari con i dovuti modi, le dovute maniere, che non sono le sue, non sono il suo forte, però secondo me un pelo di ragione ce l'ha. C'è anche da dire che sente maledettamente questa scimmia sulla spalla che gli alberga ormai da tante stagioni sul fronte europeo. Poi anche da dire che un conto è giocare contro difese italiane, un conto è salire di livello anche fisico con le sfide di vertice europeo. Tutte considerazioni che ci possono stare, secondo me, non so secondo voi. 800 24 00 24, numero verde. Sto rivedendo il gol annullato alla Juventus e la sensazione è che Pepe al momento del lancio di Pirlo fosse in posizione regolare, certamente molto difficile da cogliere. Vi devo dire che a velocità normale io avrei fischiato fuori gioco tutta la vita, però io per fortuna non faccio e non farò mai l'arbitro né il segnaline. Salvio, provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera dottor Genta, io volevo fare una domanda, una considerazione, un appello velocemente. Prego. La domanda è, visto il risultato oggi della Juve, più che lo scudetto dovrà stare attento al secondo / terzo posto in campionato, visto che Lazio e Udinese devono stasera giocare, Napoli sta volando e quindi volevo sapere se è a rischio il secondo posto o il terzo addirittura. No, non credo. Poi, non credo. Non crede. No. Poi il consiglio sempre ai tifosi della Juve che vedono sempre fantasmi, probabilmente loro sono stati abituati per decenni ad avere sempre, adesso che magari per un po' non hanno si lamentano questo. E poi l'appello, siccome qui nel Veneto ci sono state parecchie aggressioni agli arbitri negli ultimi weekend, parlo di settore giovanile, ecco, la mia proposta sarebbe: perché non si fa un anno senza genitori? Salvio, anche di più di uno, io vieterei l'ingresso proprio senza sine die. Faccio l'appello perché qua non ma anche perché più. Poi i ragazzi si divertono di più senza avere il fiato sul collo di questi che in alcuni casi sono bravissime persone, in altri casi sono degli incivili, ma lo sappiamo bene. Io ascolto per telefono, buona serata a lei. No, io non credo che la Juventus sia a rischio per il secondo posto. Credo che le partite delle squadre di giovanili dovrebbero essere giocate a porte chiuse praticamente, o comunque con divieto di accesso per i genitori, poi magari gli si manda il filmato con calma, però, e magari a rate indifferita. Intanto non mi piace tanto l'annuncio del silenzio stampa della Juventus dopo la partita di oggi. C'è stato qualche episodio, però non vorrei che la Juventus cascasse in questa ricerca eccessiva del complottismo. Sto riguardando l'episodio da rigore, questa trattenuta di Carvalho su Matri. Parte con la trattenuta con la mano sinistra, proprio Matri che tira la maglia di Carvalho lo cintura a sua volta. Difficile capire l'intensità di questa cintura, poteva starci, però non è una di quelle cose clamorose a mio parere. Marco da Genova. Pronto, buonasera Carlo. Buonasera. Io come intervento volevo riallacciarmi a quello che lei è un suo corrispondente avete affermato precedentemente in merito a Maradona, sì, rientrare in Italia e cose di questo genere. Come cittadino mi trovo fortissimamente in disaccordo e ritengo che chiunque di noi che ha pendenze con la e forse anche a maggior ragione un personaggio pubblico per qualcuno sicuramente per me molto poco carismatico avrebbe il dovere civico di mettersi a posto con il pagamento delle tasse. Sì. E dal mio punto di vista, se non lo fa, resti dove sta. No, ma io mi pare dormirò che moltissimo. Però Marco, mi pare che abbia detto che la sua intenzione è quella di regolare la situazione, no? Di regolare questa posizione. No? Mi perdoni Carlo se penso che oltre le intenzioni sono belle quelle che si tramutano in azioni. Poi sì, sarebbe un gesto. Beh, ma ce ne sono altri, Marco, di stracampionissimi. Lei conosce bene i nomi che hanno avuto le loro rogne con il fisco, le hanno sistemate, gente che va molto forte in moto, ad esempio. le hanno sistemate e adesso sono come prima. Questa storia di Maradona è effettivamente lunga da morire, anche noiosa da morire se vogliamo. Se venisse risolto una volta per tutte e Diego potesse tornare in Italia normalmente come tutti dopo aver saldato le sue pendenze, che si trasformi ovviamente queste da parole a soldi, beh, allora a me piacerebbe rivederlo in Italia, non lo so, poi questione di gusti, non nulla in contrario, insomma. Gerry, Torino, buonasera. Buonasera Carlo, è un piacere parlare con te. Allora, sono velocissimo. Penso che oggi, io sono della Juve, non dobbiamo rammaricare tanto sul pareggio a Genova, che comunque da tempo è sempre un campo abbastanza pericoloso per noi. Noi dobbiamo rammaricare sui punti che abbiamo perso in casa, punto e basta. Questa è la prima considerazione. Sì. La seconda... Beh, ma anche oggi sono punti persi. Anche oggi sono punti persi, però, perché la Juventus meritava di vincere questa partita. Però non mi sento io di essere negativo nei confronti di una squadra, soprattutto di un allenatore che comunque ha dato una mentalità che da anni non vedevamo alla Juve. Cioè oggi la Juve è entrata in campo, ha fatto gioco, è stata ordinata. Per carità. Quindi questa è la Juve che vogliamo. Se non posso rammaricare su un punto a Genova... Se mi vedo indietro, ho visto che col Chievo abbiamo pareggiato, col Siena abbiamo pareggiato, all'andata col Genova abbiamo... Quelli sono punti pesanti in casa, dove... Col Bologna due pareggi. Lo so, però il vizio di fondo rimane lo stesso, Gerry. Al di là del fatto che comunque giocare a Genova sia un campo più complicato, il vizio di fondo rimane lo stesso. C'è una squadra che ha tutte queste caratteristiche, che però manca... del giocatore, manca del colpo in grado di trasformare queste partite da un punto a tre punti. Sentiamo una battuta di Preziosi con Skype e ci fermiamo. Ci hanno veramente messo in difficoltà, dimostrando che è veramente una grande squadra, nonostante avesse giocato mercoledì, e non è un inno alla Juventus, ma devo riconoscere agli avversari il loro valore. Non per niente poi lottano ancora per lo scudetto. Per quanto riguarda gli episodi, io sentivo appunto anche Marchegiani che diceva non si può dare un rigore. Un rigore o c'è o non c'è. Per me quel rigore lì era sacrosanto, come poteva anche esserci il gol di Pepe. Queste sono valutazioni che l'arbitro fa. Forse se non fosse stato il 97esimo, 96esimo, 93esimo, forse avremmo avuto il rigore. Forse, non lo so che valutazione ha fatto l'arbitro. Per me quello era rigore pieno, netto. Così come poteva essere gol. Adesso io ovviamente sta parlando di quello prodomo sua, no? del contrasto di Pirlo su Marco Rossi. A me sembra che il giocatore della Juventus tocchi prima il pallone. Possiamo dire che questo episodio fa il paio con quello di Matri. Non mi sembrano comunque due cose da perderci il sonno. Intanto ad Equitalia, anche se domenica, hanno subito fatti i conti alla svelta. 40 milioncini di euro il debito di Maradona. Nessun incontro in vista tra Maradona, suo legale e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Nessun contatto. Inoltre sarebbe un aumento in corso con i vertici di Equitalia, che stanno gestendo il recupero crediti vantato dallo Stato italiano nei confronti del campione, che si aggirerebbe attorno ai 40 di milioni di euro. Mica poco. C'è Marino, una battuta con Marino. Mi chiedo se è stato turbato per quell'intervista che abbiamo letto oggi del capo degli Zingari, insomma, che lo avrebbe accusato di far parte di quel giro di scommesse. L'ha turbato o era tranquillo alla sostituzione indipendentemente da questo? Allora, Scully è uscito per infortunio. Se ha giocato significa che era serenissimo, per cui non il problema si chiude, voglio parlare solo di calcio. Sì, era giusto per capire, avremmo fatto un errore a non domandarglielo. Ilaria. Luca. Vabbè, Marino su Scully. Io, la Juventus lascerà lo stadio Marassi senza rilasciare dichiarazioni. Questo è un Twitter ufficiale dei bianconeri. Le immagini parlano da sole. Mirko Graziano, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Le immagini parlano da sole. La comunicazione è arrivata proprio subito dopo che siamo scesi nella famosa mid-zone. È arrivato il capo ufficio stampa e ha detto che la Juve non avrebbe parlato. A un tentativo di richiesta di spiegazione da parte dei cronisti, la risposta è stata proprio quella che tu hai appena detto: le immagini parlano da sole. Non c'è un po' di vittimismo eccessivo in tutto questo? Ma guarda, c'è forse un mix un po' di tutto, c'è forse anche la rabbia di vedere il Milan sfuggire, c'è forse un attimino di timore di vedere arrivare da dietro qualcuno, c'è in effetti una partita dominata di fatto e non vinta, quindi c'è anche quella delusione lì, e ci sono un paio di decisioni prima della, poi dell'altro rigore, che in realtà c'era anche quello per il Genoa alla fine, un paio di decisioni che insomma hanno lasciato un po' di amarezza. Credo che più che altro sia proprio anche la rabbia del momento. Sì, ma sai, io ho la sensazione, tu magari dal campo ce l'hai avuta più acuta, o magari me la smentisci, dico una fesseria, ho la sensazione che quelli della Juventus giochino guardando molto l'arbitro, cioè su ogni si è creato questo clima, si è creato un po' questo clima, loro a un certo punto hanno ritenuto che la misura fosse colma, e quindi da quel momento in poi adesso ogni decisione richiesta di credito diventa va sotto la lente di ingrandimento. E oggi ce ne sono state due, in effetti, in una giornata, ripeto, dove la Juventus sul campo aveva meritato di vincere, forse anche questo ha fatto venire un po' più di rabbia, un po' più di amarezza all'interno dell'ambiente. Sicuro. Mirko ha meritato di vincere, ha giocato secondo me una signora partita, forse la migliore dell'ultimo mese. Hai ragione, considerando che dietro c'era una coppia centrale totalmente inedita, e la Juve ha giocato senza troppi timori, anche perché Vidal ha giocato bene, è stato molto bravo, molto attento, è sembrato poi il mascherano del Barcellona quando è retrocesso in difesa, ha giocato con grande intelligenza. Cáceres è diventato un giocatore all'altezza, Pirlo è il solito Pirlo, che all'88esimo ha fatto un numero che ha fatto venire giù lo stadio, perché nel pieno della tonnara se n'è andato via in mezzo a tre con una facilità, con una finta è andato via in mezzo a tre. E però c'è il solito problema della Juve, che là davanti hanno voglia di lamentarsi i centravanti della Juve, i centravanti della Juve non la buttano dentro quando devono buttarla dentro. Bravissimo, non la buttano dentro quando devono buttarla dentro, anche sfigati perché prendono pali e traverse, però la verità è che non la buttano dentro, e quindi la differenza tra il Milan e la Juventus alla fine si riduce al solito pennellone svedese. Bravissimo, perché due o tre palle vaganti sono passate davanti a Frey, e lì con un centravanti vecchia maniera la palla va dentro, questa è la verità. Si è visto addirittura Elia Del Piero pochissimo, giusto, comparsata nel finale, 10 minuti, sai, in una situazione come questa, lui che non ha giocato quasi mai, un po' di più, no? Sì, io penso, voglio dire, Conte è sempre molto attento, devo dire la verità, Conte in questo non guarda in faccia a nessuno, non schierandolo probabilmente ritiene durante la settimana di non vederlo all'altezza, in effetti la gamba non sembra quella delle migliori, però ci sono partite dove a volte più che la gamba serve il piede. Bravo. No? Quindi il piede di Del Piero a volte può fare la differenza, un cross, una punizione. Questo sì, però oggi obiettivamente i gol se li sono mangiati, se li hanno sbagliati, quindi c'è poco da fare. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a te, un abbraccio, ciao. Grazie Mirko Graziano. Io torno a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24, Ceno Cerino con Sky. Limite, c'è Ibra, parte il tiro, c'è Ibra che fa questo gol meraviglioso, botta pazzesca da 25 metri. Beh, stanno facendo rivedere i gol, poi parlerà anche Nocerino, 9 gol stagionali e ampia candidatura per la maglia azzurra europea, per Nocerino, secondo me. Antonio, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Volevo fare due considerazioni, più che altro due domande. Allora, il Milan ha subito torti arbitrali ben più gravi, secondo me, di quelli di cui si è sempre lamentata la Juventus, ad esempio. La Fiorentina ci hanno annullato un gol regolarissimo, contro la Lazio sullo 0-0 non ci hanno dato un rigore sacrosanto, contro la Juventus palla dentro di un metro e nessuno si era, cioè, ci siamo lamentati, però insomma non fino al punto di andare in silenzio stampa. Sì. Non vi sembra un tantino esagerato l'atteggiamento della Juventus? E adesso non ho ancora visto il rigore, detto, appunto, che dice Preziosi che appunto c'era. Sì. Hai il coraggio, secondo me, di... L'ho appena detto, Antonio, mi sembra un filo di vittimismo eccessivo, magari determinato anche dalla rabbia, vedi il Milan che scappa, vedi che comunque infili 4 pareggi in fila, vedi comunque che prendi pali e traverse, insomma oggi, ripeto, alla Juventus non ha detto benissimo, però la questione è che devi trovare un attaccante che trasformi la quantità di gioco e di palle gol che sei in grado di produrre, altrimenti se poi stai ad appenderti a questi episodi, che ripeto non sono una cosa epocale, sono piccoli episodi contrari che volendo ci possono anche stare, soprattutto se sei un po' più sereno. Ripeto, mi sembra che la Juventus giochi in questo clima che non le fa bene, giochi guardando un po' troppo l'arbitro e l'operato dell'arbitro. Biagio da Bergamo. Buonasera Carlo. Buonasera. Senti Carlo, volevo fare due considerazioni veloci. La prima è quella riguardante le crisi che hanno le squadre, no, di Serie A. Il Milan ad oggi non ha ancora avuto una vera e propria crisi, no? Fisica, e quindi un calo fisico e psicologico, quindi è ancora concentrato al massimo sul discorso scudetto e coppa. Quindi per cui io dico che la Juve al momento sta attraversando una crisi dovuta a un calo fisico della preparazione e quant'altro che Antonio Conte. Sì, può essere, oggi non si è vista, io oggi ho visto una Juventus in ripresa. Sì, appunto, la seconda è proprio quella psicologica, cioè la pressione che la Juve, alcuni giocatori della Juve non sono abituati a questa pressione di inseguire la vittoria, per cui non hanno il carisma della squadra appunto retrocessa in Serie B, quindi secondo me non sono pronti a questo stress psicologico. La seconda considerazione è che secondo me assisteremo a un finale di campionato esplosivo da Juventus con vittorie consecutive. Il Milan sì, avrà... Credo che la Juventus rimarrà lì fino alla fine. È chiaramente in una crisi di risultati, perché quattro pareggi consecutivi sono una piccola crisi di risultati. È l'unica squadra a non aver ancora perso, mentre il Milan ha già perso diverse partite, soprattutto con le grandi. Hanno un andamento diverso in questa stagione. Il limite della Juventus però è sempre quello, insomma, che non riesce a raccogliere. Oggi a Genova non ha raccolto quanto avrebbe dovuto, perché evidentemente è una squadra ancora incompleta dal punto di vista dell'organico. Ha ragione poi Conte o tutti quelli che dicono stiamo facendo un miracolo ad essere in corsa con questa squadra, certamente è così. Mario, provincia di Milano. Sì, ciao Carlo, è sempre un piacere. Allora, io volevo fare le due considerazioni velocissime. Una sul pennellone svedese, alla tua domanda di prima, che io come tifoso rossonero gli dovrei dare l'8 per 1000 tutte le volte che scendo in campo. Sì. Gliene danno già abbastanza, va, lascia sta. Vada qualcun altro. Però vorrei vedere anche il suo nome nel 7:30. più che altro volevo dire che secondo me però in quel caso lì tutta la vita do ragionare Allegri, perché lui permettimi la parola, lui si è incazzato dopo Londra. Sì. Ma a Londra c'era anche lui in campo, non è che c'ero sì, io. Sì. No, ma certo. Non è certo, che ha giocato certo. Stopper, ha giocato certo. Da prima punta. E non è neanche la prima volta che se la piglia dopo partite andate storte, anche con altre magliette. Perché... Se ha due attaccanti o un attaccante e un centrocampista che comunque si fanno il mazzo per lui... Sì. Guarda, l'ha detto anche Trappattoni, cioè c'era lui in campo. No, ma indubbio, Mario, sì, Mario, non fa una grinza questo. Il mio discorso è tecnico, cioè secondo me Ibrahimovic è nelle migliori condizioni quando ha molto spazio davanti ed è in grado di giocare, di giocarsela faccia a faccia, di giocarsela uno contro uno senza avere troppa gente intorno, perché lui è abituato, lui piace giocare in quella maniera lì. Poi è chiaro che sente la pressione delle notti europee, si sente tutti gli occhi addosso, gli avversari hanno un altro livello rispetto ai centrali del Lecce e gioca molto teso, molto nervoso e sbrocca con grande facilità. Però quello che dico io è che il modo migliore per sfruttare Ibrahimovic è quello di non mettergli troppa gente intorno. Questa mi sembra una verità consolidata dalla sua carriera. I messaggi sono vari e variopinti, al 349-238-6666. Si va da il perché del silenzio stampa juventino è semplice, come dicono nella capitale non c'è monno sta, oppure Maurizio meritavamo di vincere ma se non la butti dentro Marotta lascia stare gli arbitri e porta a casa uno buono, oppure di tenore diverso Massimo da Ivrea ma Calciopoli ha finito o no, oppure un altro ascoltatore, piccoli episodi contrari, il calcio è fatto di piccoli episodi, una risata vi seppellirà, insomma, va bene e vale tutto. 800 24 00 24 per la vostra voce. Invece Alberto, provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera a lei, solo una considerazione, tutto vero secondo me quello che avete detto sulla Juventus, la differenza sul Milan la fa Ibrahimovic, sono molto troppo vettivismo. Ma che non mi si venga a dire che l'intervento di Pirlo era un rigore netto perché ha preso la palla. È quello che ho detto anch'io. Però nemmeno il rigore su Matri mi sembra una roba da urlo. Lato tempo, è questione di 2 millimetri, quindi assolutamente. Siamo però, sempre lì, siamo sì, sempre sì, lì. No, siamo sempre lì, per carità, però Pirlo ha preso la palla. No, ma l'ho detto anch'io, la sensazione che ho avuto anch'io, che Pirlo abbia preso la palla e poi la palla c'è la stato... La palla è rimasta lì perché si è spostata lateralmente, sì, il palo laterale, nessuno sì, diceva nulla. Sì, sì, sì, sì, ha sfiorato la palla e poi ha colpito anche Marco Rossi, dunque non mi sembrava un rigore, non mi sembrava un rigore clamoroso, o non era un rigore del tutto questo, insomma, così come... Certamente non era un rigore clamoroso quello su Matri. Chicco, Brescia, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un juventino, come le sa, e mi domando, visto che ha questa difficoltà a fare gol, aspettiamo a far giocare un po' Boriello. Grazie. Grazie. Boriello. Boriello ha giocato anche oggi, è entrato nel finale, una buona girata, però non mi sembra ancora... Non mi sembra ancora esattamente calato nell'attacco juventino, cioè non è riuscito fino adesso a portare nulla a questo attacco. A questo attacco manca la continuità di Vucinic, secondo me, perché il giocatore chiave, il giocatore cardine è lui. Matri sta facendo un'ottima stagione, però alla Juventus, secondo me, serve il giocatore che ha il lampo di genio, serve il giocatore che salta l'uomo ed inventa una situazione in partite come quella di oggi, dove di mole di gioco fino alla tre quarti ne è stata fatta un sacco, però manca il giocatore che accende la luce. Luca da Roma. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevo fare un passo indietro, volevo tornare a venerdì, se era possibile. A venerdì, volentieri. Allora, parlo velocissimamente dell'Inter, ho visto mezz'ora di Inter che quest'anno non sarà mai visto nel primo tempo, dopodiché la mia considerazione è purtroppo sui vecchietti, nel senso che se non ci fosse stato Poli in questo centrocampo, Zanetti e Stankovic si sono nascosti dietro la mobilità di Poli. Dal 60esimo al secondo tempo questi signori hanno giocato praticamente faccia alla nostra porta, rincorrendo gli avversari, non riuscendo né a rincolare. Quindi, considerazione finale, credo che per vedere un minimo di gioco da quello che può uscire fuori dall'Inter quest'anno, noi sopportiamo uno dei tre vecchietti, cioè fra Cambiasso, Stankovic e Zanetti ne sopportiamo uno soltanto in campo. Sì, cioè, tutta la vita un po' un hobby, un... Ma serve energia, serve quell'energia anche fisica che l'Inter non ha più in quei giocatori che però sono... Insomma, queste sono cose che accadono, no? Spesso a fine ciclo hanno molta voce in capitolo, comunque in società, comunque anche presso l'allenatore, eccetera. È evidente che l'Inter gioca costantemente sotto ritmo, è evidente che l'Inter non ha energia nel centrocampo. Un giocatore come Poli non può, a mio parere, stare a guardare. Un giocatore come Faraoni, a mio parere, non può stare a guardare, ma non perché siano dei fenomeni, perché portano quell'energia minima indispensabile che sennò all'Inter manca. Massimo D'Ancona, buonasera. Buonasera, grazie per lo spazio. La mia considerazione che è solo un po' dal calcio giocato. Volevo solamente fare due considerazioni, una su Allegri e una su Conte. Su Allegri, francamente, sono un po' infastidito dal suo modo di parlare, perché? Questo accento spiccatamente toscano. Sei di Livorno. Persone di un certo livello che non riescono nemmeno a fare un corso di fonetica audizione, mi lascia un po' perplesso. Potete migliorare un po' la sua. Dovrebbe migliorare. A me, dico la verità, a me piace. Poi scusi, ma c'è Dan Peterson che su quell'accento italo-americano si è costruito un personaggio, non lo so. Lei... Però è americano. Lui sì. È italiano. Potrebbe cercare di togliere quell'accento toscano che è molto bello, però forse per un contesto internazionale potrebbe. Poi su Conte, oddio, per carità, ha dato alla squadra un carattere che non aveva, però non lo vedo proprio come. Insomma, la Juventus ci ha abituato a stili diversi, non ha una classe che contraddistingue lo stile Juventus, insomma, sempre esagitato in panchina. Insomma, così. Ma chi contraddistingue? No, Spezia, è ancora lì? Abbiamo avuto di meglio, insomma, come rappresentanti in panchina. Ma in che senso? Beh, insomma, non mi sembra che... Guardate Montella, la sua compostezza, la sua blonde. Ponte mi sembra salta, urla. Oddio, vedrei qualcosa di meglio. Intervento molto... Grazie. No, grazie. Intervento molto interessante, ne facciamo... Adesso la questione fonetica, perché Allegri è toscano e gli piace parlare toscano, e Conte non è magari bellissimo e si agita un po' troppo. Meglio uno che parli bene e che stia composto in panchina. Se poi anche vince, allora tombola. Federico. Sì, buonasera Carlo, un piacere parlare con lei. No, reciproco. Dunque, io sta parlando Montella, che ha plomb, è elegante. Parla anche un buon italiano senza particolare accento del sud, eh? Li scegliamo così? Io sono un accento emiliano, spero che possa passare. Può passare, sì, sì, poi chiediamo al professore di qui sopra. Io sono un tifoso dell'Inter, sì. Ma soprattutto sono un arbitro di calcio. E vorrei commentare in merito ai tifosi juventini e alla dirigenza juventina che continua insomma ogni tanto a fare illazioni in merito a presunti svantaggi o addirittura accanimenti. Niente, io vorrei portare la mia testimonianza di arbitro che, insomma, di solito le decisioni, questa è una cosa tipica dei giocatori che pensano che ci sia un accanimento. Uno al massimo può dire l'arbitro è scarso, l'arbitro non è bravo, ma... Però sai, lei sa, Federico, come la politica del lamento spesso paghi, no, nel nostro paese, perché chi si lamenta, urla, prepara dossier, eccetera, eccetera, poi alla fine qualcosa raccoglie. È vero che la gestione degli arbitri, cioè l'arbitro, quando arbitra sta facendo una carriera anche lui. Sicuro. E lui dopo viene valutato non su quello che scrivono i giornali, ma in base a quanti errori ha fatto. Sicuro. Se ha fatto due errori salta due turni, se ha fatto tre errori salta tre turni, se ne ha fatti quattro turni. E le decisioni, soprattutto quelle su rigori come quello di oggi, o rigori o meno, li prende, ma le parto veramente la mia testimonianza, sono decisioni che vengono prese prima di riconoscere i colori delle maglie. Sì. No, ma... Non ho dubbi sul fatto che sia così, che l'arbitro comunque tenga anche alla sua carriera. È un piacere per me ritrovare e salutare un amico come Giancarlo Camolese. Buonasera mister. Buonasera a voi. So che era San Siro. Sì, ho visto e ho commentato per Mediaset Milan Lecce, una buona partita. E c'era Ibra stavolta. È stato molto bravo, ha fatto un assist, ha fatto un gran gol, insomma una bella risposta sul campo, magari a qualche chiacchiera di troppo. Senti, ma io prima ho detto che come tipo di giocatore, insomma lui fa i capricci, sente la pressione di Coppa eccetera, però come tipo di giocatore forse il modo per farlo rendere al meglio è davvero quello di lasciarlo solo là davanti, con un trequartista che gli balla intorno, con un finto trequartista come Manuelson, ma di lasciargli il maggiore spazio possibile per il confronto diretto, che ovviamente a livello europeo è un po' più duro. Beh sì, a livello europeo le cose cambiano, gli avversari, soprattutto a livello di Champions, sono di grande qualità, quindi magari anche lui trova qualche difficoltà in più. Lui nasce poi in definitiva come seconda punta, perché nel suo passato ha giocato spesso come seconda punta. È un giocatore che, nonostante la forza fisica impressionante, ama venire indietro, giocare palla, sa dare assist. E poi è chiaro che quando va in area ha una grande forza, una grande presenza fisica, però io credo che lui debba essere lasciato libero di svariare su tutto il fronte d'attacco. Sì. E sono gli altri che si devono coordinare attorno a lui. Sì, ma ha ragione Allegri quando dice bisticci normali, cioè nessuno vince andando d'accordo dall'inizio alla fine della stagione. Beh, è chiaro che si può anche vincere andando tutti d'accordo, non è obbligatorio scazzarsi, sì. No, infatti, però può anche capitare che ci siano delle discussioni. Io credo che l'abbiano affrontata bene, nel senso che pubblicamente l'hanno gestita in un certo modo, e poi credo che Allegri davanti ai compagni abbia preso un altro atteggiamento, perché è chiaro che se tutti i giocatori alla fine della partita, ed il Milan ne ha tanti di campioni, si permettono di dire come bisogna giocare, allora diventa un grande problema per l'allenatore. Senti, da collega, che impressione ti hanno fatto le lacrime di Ranieri? Sono frutto della grande pressione che c'è attorno all'Inter. È chiaro che noi gli allenatori danno tutto quello che hanno e questo non dipende ovviamente dall'allenatore, ma anche da situazioni che ti girano attorno, dallo stato di forma dei giocatori. Tu magari poi vedi che loro ce la mettono anche tutta, però per tante ragioni non riescono a dare il 100%, quindi poi alla fine è un pianto liberatorio per una situazione che, migliorando diciamo la qualità dei giocatori, nel senso che di nuovo certi giocatori troveranno la forma migliore, dovrebbe risolversi in positivo per l'Inter. È successo anche a te? Beh, di affrontare situazioni in cui c'era un grande carica emotiva sicuramente, sì. Però insomma poi è chiaro che queste situazioni si superano, perché poi l'abilità dell'allenatore è poi sempre quella di rimanere lucido e razionale. Un'ultima cosa, mister, hai visto il Milan, quindi non so quanto tu possa aver visto della Juventus, che oggi è in silenzio stampa perché dice avevamo segnato, il gol era buono, non era in fuorigioco, c'era un rigore, eccetera eccetera. Non ti sembra che stia commettendo l'errore di cadere in un vittimismo eccessivo la Juventus? Ma sono quelle situazioni che sono facili da commentare quando non sei dentro, nel senso che è chiaro che quando sei dentro tutti gli episodi negativi che ti capitano vengono ingigantiti. Poi loro stanno facendo un grandissimo campionato, hanno magari qualche difficoltà in più a fare gol, è chiaro che ci sono degli episodi che in questo momento sono negativi e li vivono in maniera più complicata. Però la Juve non deve dimenticare che sta facendo benissimo, è una squadra imbattuta, che ha la sua sua precisa fisionomia, certo. E che credo che lotterà fino in fondo comunque. Lo penso anch'io, grazie mister, buon ritorno. Grazie a casa. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Grazie Giancarlo Camolese, proseguo con gli ascoltatori, Davide da Varese, Silvio da Milano. Davide. Sì, pronto, buonasera dottor Genta. Sera. È un piacere. Reciproco. Sono juventino e oggi ho visto la partita e devo dire una grandissima Juve, veramente. Ha fatto vedere il pallone. Un'ottima Juve. Ha fatto vedere veramente poche volte, pochi minuti il pallone al Genoa. Una considerazione riguardo alla difficoltà di portare il pallone in rete della Juve. Non vorrei che il prossimo anno o il prossimo futuro bianconero venisse sacrificato Vucinic. Perché mi sembra che sul fatto che la Juve non riesca a segnare tutte le colpe ricadano su Vucini, quando a mio parere veramente forse l'unico... Sa cosa? È l'unico ad avere quelle caratteristiche. Cioè io dico Vucinic è imprescindibile per la Juventus, a parte il fatto che io non ho ancora visto in bianconero il Vucinic sempre discontinuo ma a tratti davvero devastante che giocava a Roma, non l'ho ancora visto, non so perché, forse questione di adattamento, forse un modo diverso di giocare, forse ha meno spazi, forse non ha o certamente non ha uno che parla la sua lingua al centro d'attacco come era Francesco Totti, no? Per cui le cose venivano un po' più semplici, però Vucinic era l'unico giocatore ad avere quelle caratteristiche lì, non credo sia sostituibile per la Juventus, quindi può andare incontro a delle critiche, però credo che sia un giocatore imprescindibile. Ecco, difatti, l'unica cosa mi sono preoccupato, perché nel passato la dirigenza juventina ha fatto vedere tante volte di fare delle scelte un po' azzardate, sacrificando dei giocatori che poi sono rivelati veramente molto molto validi. Ecco, secondo me Vucinic dovrebbe essere un perno su cui costruire il futuro attacco. Ma io credo lo sarà. Se gli prendono poi uno che appunto parla la sua stessa lingua tecnica, vedrà anche un altro Vucinic. E qua mi collego, perché vorrei avere un suo parere che è molto sempre molto gradito. Secondo lei chi potrebbe essere il giocatore del prossimo campionato bianconero che potrebbe dare quel tocco in più alla Juventus? E la saluto. Saluto anch'io, ma non ne avrei idea, si fanno molti nomi, serve una... A mio parere serve quello che ho detto prima, cioè un giocatore che abbia il talento sufficiente per parlare la stessa lingua tecnica di Vucinic, cioè il giocatore che sia in grado di risolvere da solo, eventualmente con un colpo, come fa Ibrahimovic, come è in grado di fare Cavani, come è in grado di fare, non sto ad andare su Messi, Drogba. Un giocatore che con un colpo solo risolve una partita da 0-0. La Juventus ne aveva uno che si chiamava Alessandro Del Piero, evidentemente non ce la fa più. Questo è il senso, perché tutto il resto c'è, produce una quantità di gioco pazzesca. gioca a ritmi infernali, a Pirlo che orchestra tutto in maniera meravigliosa. Fino alla tre quarti è bellissima, dalla tre quarti in poi cominciano evidenti problemi e tu devi avere il giocatore che da solo, oggi per esempio Ibrahimovic al di là del gol si è inventato quell'assist al volo, no look pass come dicono nel basket, senza guardare all'indietro per Nocerino, e sono anche quelli i colpi che ti risolvono la partita. Silvio, Milano, buonasera. Sì, buonasera. Volevo spostare un attimino il tema della discussione. Perché volevo parlare un attimino appunto della crisi mondiale, allacciato un pochino al calcio, nel senso che una persona come Conte che dice guardi, io ho speso 8.000 euro per rifarmi i capelli, nessuno ne parla, secondo me è un po', lo fa con un pizzico di malizia, nel senso dovrebbe avere più rispetto delle persone che questi 8.000 euro per rifarsi i capelli non ce li hanno. Grazie, arrivederci. A lei, grazie a lei. Benissimo, signore e signori, adesso cambiamo programma. Ed eccoci all'Agorà di Rai 3, la piazza di Andrea Vianello. Ciao Andrea! Buon pomeriggio, grazie della sigla. Mi stavo per andare in onda, invece manca un po' di ore. Stamattina. ti sei allarmato? Mi sono allarmato, la sento tutte le mattine, quindi scatto. Scatti sulla tetti. Senti, ma hanno già fatto i conti per far tornare Maradona? Lavorano anche la domenica all'agenzia delle entrate. Servono 40 milioncini, cosa vuoi che siano per Dieghito? Pensa che bello averlo studio, però. Ospite. Pensa quando facevo il Mandarai 3 me era venuto in mente di fare un confronto tra Maradona e Equitalia. No. Ho provato, contattai Bagni che fa un po' da suo ufficiale di collegamento. Il problema è che finché non sistemano questa storia scende dall'aereo e cominciano a pignorare gli orologi, gli orecchini. Sì, io ho parlato con alcuni dei suoi cacciatori, diciamo, e insomma diverse volte l'hanno fermato per strada, sì. Hanno preso i Rolex. È un vieni a prendermi. È un vieni a prendermi, brava. Beh, ma a me piacerebbe però tornarsi in Italia. Mette a posto le sue storie col fisco, se è possibile. Non conosco a fondo queste storie, però lui dice: sono pronto a pagare, fatemi tornare. Mi avete lasciato fuori dalla porta per 20 anni. Mi piacerebbe tornare a abbracciare Napoli. E il Diego è sempre il Diego. E Ibra è sempre Ibra. Meglio Ibrahimovic arrabbiato per te milanista, Ibrahimovic contento o Ibrahimovic via dal Milan? No, meglio Ibrahimovic, no, nel Milan, mai via del Milan, no. Meglio Ibrahimovic, mi sembra che sia contento che arrabbiato. A volte rischia di annoiarsi, quando si annoia insomma da un po' di meno. Mi pare che si sia arrabbiato per le 3 giornate di squalifica, è rientrato e ha fatto sfracelli contro il Palermo. Adesso era un po' arrabbiato per questo brutta performance contro l'Arsenal e ha fatto quel gran gol, insomma. Sì. Io me lo tengo, insomma, magari un po' più di gentilezza, ho visto oggi un po' sgarbato con la collega di Sky. Strano, eh? Strano, strano. Strano non è da lui, no? Uno zuccherino come lui, ragazzi. No. Per fortuna era una collega, perché hanno mandato avanti apposta lei, perché se era un collega rischiava il pugno in faccia. Si chiama Vera Spadini, però. Sì, Vera Spadini. Questo, in questi atteggiamenti è un po' irritante, però vabbè, dai, lo perdoniamo poi per quanto è forte in campo. Sì. Senti, il 20 marzo c'è Juventus-Milan, ritorno di Coppa Italia e io ho già i brividi. Beh, sai, indubbiamente c'è una grande tensione, oggi anche questa decisione della Juve di mettersi in silenzio stampa, io francamente sono sempre contrarissimo ai silenzi stampa. Anch'io. Se stai zitto è sempre torto. Ma sì, poi insomma devo dire, a parte che è un atteggiamento arcaico, no? Perché è molto del passato, e poi insomma mi sembra un atteggiamento un po' inutile, autolesionistico, e insomma non mi piace. Troppo vittimismo per la Juventus, secondo te? Sono arrivati un sacco di proteste dei juventini. Ma sai, voglio dire, non entro nelle questioni, se entriamo nelle bagarre degli errori arbitrali, no? Poi dopo quel Milan-Juve che ci ha fatto così fibrillare a tutti in maniera eccessiva, si fa un errore, no? Loro mi sembra che ci stanno entrando, indubbiamente ho visto il comunicato su Twitter della Juve che dice che insomma in pratica dà annesso al silenzio stampa a questi errori arbitrali e insomma direi che se stemperiamo gli animi è meglio, io credo che il silenzio stampa non aiuti, insomma si sta giocando un bel campionato, un campionato combattuto e ancora molto aperto, giochiamocelo e abbassiamo un po' i toni. Sono d'accordo. Tutti, ma sono d'accordissimo. Anche i milanisti, insomma. anche perché, io ho l'impressione che faccia male alla Juventus questo atteggiamento. Giocano con gli occhi molto rivolti all'arbitro, tendono la mano ad ogni contatto, insomma, e credo sia un atteggiamento che alla Juventus faccia un po' di male. Per chiudere, Andrea, che aria aveva questa settimana la Roma biancoceleste? La Roma laziale, dici tu? Sì. Ma insomma, è una Lazio inorgoglita dal successo col derby. Sai, insomma, questa è una stagione strana in cui c'è una Roma che, nonostante tutto, diciamo, ha molta aspettativa. Io devo dire, tutti gli amici romanisti, pur essendo un milanista a Roma, quindi un po' un esule in patria, tutti gli amici romanisti comunque li vedo convinti del progetto, come lo dice, del progetto di Luis Enrique. E i laziali stanno un po' più sotto traccia, sono diventati pochi i laziali a Roma, no? Si sono persi. Io quando ero bambina avevo metà romanisti e metà laziali, sì. E adesso in classe di mio figlio non c'è neanche un laziale, quindi insomma va tutelata come categoria. È una specie protetta. È un panda, come gli animali in via di estinzione, quindi insomma facciamo dei panda biancocelesti, popoliamoli, e insomma in questo momento ha ragione lei a dire che poi alla fine c'è stasera... vincono, insomma, stanno a 6 punti, insomma, una squadra. Poi magari lo mandano via, poi magari lo salta sullo titolo e dice no, te lo mandano via. Poi magari lo mandano via. Ed è una squadra, insomma, che forse ha fatto un errore a vendere un po' prematuramente Sissé, che era stato abbastanza irritante nella sua permanenza romana, però ho visto che appena è andato a Londra ha iniziato a segnare. Sì. Alla Lazio forse un attaccante così sarebbe comodo. Vediamo quanto prosegue. Andrea Vianello, grazie. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio. Domattina con Agora, grazie. E lo salutiamo con la sigla di Agora, Andrea Vianello, e andiamo invece senza sigla da Giuseppe da Milano, altro ascoltatore. 800240024, numero verde. Giuseppe. Buonasera, signor Carlo. Buonasera a lei. Sono juventino di rientro da Genova. Non da Genova, purtroppo, perché è sempre un po' difficoltoso trovare i biglietti. Abbiamo visto lo stadio pieno anche oggi a Genova. E tutti contenti per un ennesimo pareggio della giornata, ecco. Sono, tra virgolette, un juventino favorevole al silenzio stampa, perché capisco veramente come possono nascere certe cose. Basta guardare gli ultimi 15-20 giorni. Tutti i richiami allo stile che ci sono arrivati da varie parti. No, ma io al silenzio, guardi, io al silenzio stampa favorevole non sono, cioè si tratta di valutare le cose con la giusta. Ma non c'è questa obiettività e questa serenità nel trattare le cose della Juventus. Perché oggi la Juventus ha giocato una signora partita? No, la Juventus oggi ha fatto una signora partita. Se parliamo tecnicamente, sì. La Juventus oggi è piaciuta, è mancato il risultato. Non penso che il silenzio stampa sia figlio delle situazioni di oggi, ma forse da un qualche cosa che i tifosi juventini si tirano dietro da troppo tempo. E questo mi sembra pericoloso per la Juventus stessa, se mi permette. Lo so, però, mi sembra pericoloso per la Juventus stessa perché è un atteggiamento sbagliato. Cioè, oggi la Juventus non ha vinto questa partita, che avrebbe meritato di vincerla dopo averla per lunghi tratti dominata e dopo essere stata scalognata la sua parte. Non è la prima volta quest'anno, siamo abbastanza abituati anche a questo. Sappiamo di non avere tutte le chance per poter vincere questo campionato, ma siamo molto sereni su questo. E la nostra rabbia non viene dalla possibilità di mancare questo titolo, che non era sicuramente nei programmi, ma che è ancora raggiungibile. Io non lo vedo così raggiungibile. Quello che fa male vedere ancora questo tirare per la giacchetta una società che penso che in questi anni abbia dimostrato di voler tirare fuori la testa facendo errori, campagne sbagliate, alternando delle vincenze che non sono piaciute, però il giudizio, il taglio che io non trovo perché la Juventus, che ha cominciato a chiedere rispetto qualche settimana fa, si è creato un clima impossibile intorno a Milan-Juventus. In Milan-Juventus non mi pare sia stata sfavorita la Juventus, insomma siamo sempre lì, no? La cosa peggiore di quella notte di Milan-Juventus non fu l'errore vistoso della terna arbitrale, quanto il clima da far west assoluto che si respirò prima, durante e dopo quella partita. Questo sì, sono queste le situazioni da evitare, ed è da evitare la dietrologia, e bisognerebbe evitare di eccedere nel vittimismo. La Juventus sta facendo un campionato meraviglioso, sta pagando i troppi pareggi, perché? Perché ha delle lacune tecniche ancora da colmare e che insomma fa fatica a nascondere, soprattutto in partite come quelle con il Chievo, con il Bologna, eccetera, in cui hai punti, hai nettamente vinto la gara, però non la sbatti dentro. E allora è facile la tentazione di aggrapparsi a episodi, a venti contrari, a veleni, al passato e a tutte queste altre cose. Loris, provincia di Lodi. Buonasera gente, sono Loris. Senta, io mi occupo di calcio da una venticinquina d'anni. Credo che il problema della Juventus risieda nella panchina. Cioè Conte? Direi proprio di sì. Conte è 7 partite che sbaglia la formazione, 3 le ha vinte, 4 le ha pareggiate, quindi ha evidentemente non la settima squadra, come va dicendo lui da un po' di tempo, come valori assoluti, ma sicuramente la seconda squadra del campionato, è nella posizione che si merita, perché alcune cose le ha fatte veramente bene, però diciamo che vive di una bugia profonda, raccontando a tutti, forse deve caricare l'ambiente, però credo che l'allenatore deve ancora fare quei chilometri o quelle ore di volo. Quali, Loris, quali sono gli errori principali? Ma nella partita con il Milan mi è sembrato di vedere una squadra rinunciataria, sì. Un 3-5-2 che non gli appartiene. L'errore è stato secondo me quello di rivoluzionare la coppia offensiva. In una partita così importante vai coi tuoi, vai con quelli che ti hanno portato fin lì. Sì, ma se giochi con 2 difensori in più contro il Milan ti abbassi e aspetti che ti fanno gol, come giustamente doveva finire 2-0 la partita, quindi 2-3 quello che era. Quindi evidentemente anche lui ha delle letture abbastanza poco ragionate o probabilmente addirittura presuntuose. Qui io credo che questo sia vicino molto alla presuntuosità, però è anche vero che lui comunque ha portato linfa, grinta, combattimento, voglia di vincere, ma non ha la settima squadra, la seconda squadra in Italia. Forse la prima, perché credo che il campionato sia ancora aperto. Nella partita di oggi secondo lei ha sbagliato qualcosa? Prego? Nella partita di oggi secondo lei ha sbagliato qualcosa? Mi pare che le scelte fossero abbastanza obbligate. Oggi era ortodosso. Assomigliava a se stesso come 7 partite fa, oggi. Nelle altre evidentemente Borriello non ci azzecca nulla col gioco della Juve, il doppio centravanti Quagliarella-Borriello non c'è nel calcio, quindi quello è un errore profondo che non si può spiegare facilmente per chi non fa calcio, come me sul campo tutte le un errore Loris, che risiede spesso anche nell'Inter con Pazzini e Milito. Quello è veramente grottesco. Infatti la squadra quando gioca così non vince. Quando si libera di uno dei 2 centravanti riesce a fare qualcos'altro. No, io dico, continuo a ripetere che il giocatore, che l'ago della bilancia è Vucinic. È Vucinic, però troppo discontinuo e ripeto, non c'è un altro attaccante che riesca a parlare la sua lingua. E quindi certe giocate non gli riescono, forse anche per quello. Io non ho ancora visto il Vucinic di Roma, però lì era un'altra situazione, un'altra squadra, un altro contesto e c'erano anche altri compagni da un punto di vista proprio tecnico. Grazie Loris, è stato un piacere. Marco da Pisa. Salve Genta. Salve a lei. Dia. Allora io volevo dirgli cosa ne pensa, perché questo Conte si incaponisce a non far giocare De Pier e Quagliarella dall'inizio. La saluto. Mi saluta e gireremo il tweet ad Antonio Conte. Non lo so. Non saprei. Quagliarella è più fuori che dentro. Ne ha ogni volta che entra si fa male, lo zigomo e altre varie parti del corpo. Quindi non riesco mai a capire quando è disponibile oppure no. Del Piero, evidentemente, non lo vede, eppure Del Piero. Cioè, se facciamo un discorso strettamente così tecnico, sarebbe proprio il giocatore in grado di sparigliare le carte in partite, ad esempio come quella di oggi, però evidentemente proprio non lo vede, si vede che anche Del Piero, sapendo che è la sua ultima stagione, l'ha data su e magari si allena camminando. Questo non lo so, questo bisognerebbe degli allenamenti della Juventus e soprattutto chiedere ad Antonio Conte. Oh, in attesa di parlare con altri ascoltatori che avranno la bontà di chiamare 800 24 00 24, numero verde, muoio dalla voglia di farmi spiegare dal mio amico Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta da Madrid, di questa nuova storia tra Mourinho e Guardiola, perché non l'ho capita. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te. Mi sembra che Mourinho sia di nuovo abbastanza geniale, nel senso che più o meno quasi per insultare Guardiola gli dice che è come lui, no? Cioè, e quindi Guardiola infatti si risente, dice no, io non sono come te. Però non è male, è la prima volta che sento qualcuno cercare di, no, gettare discredito, sì, su un'altra persona dicendogli che siamo uguali. Il diavolo è l'acqua santa, no? Esatto, però cioè, no, non è male. Cioè, Mourinho assume quindi ufficialmente le parti del diavolo, dicendo sì, io sono il diavolo, infatti anche ieri ha detto io sono imperfetto, però altri sono meno perfetti di quanto sembra. Cioè gli ha dato del pretino spretato. Più o meno, però voglio dire, però Guardiola ha ceduto su una questione, che dice noi siamo uguali solo perché entrambi vogliamo vincere. E lì è la madre un po' di tutte le situazioni, perché allora diciamo in parte ha ceduto, poi sì, è chiaro che la maniera di vincere sono differenti, la voglia può essere uguale, però poi il modus operandi è diverso. E soprattutto insomma, giustamente Guardiola diceva ci sono le immagini, insomma, non ha citato il dito nell'occhio, però insomma era chiaro che a quello si riferiva, insomma, sì. Non vediamo Guardiola mettere un dito nell'occhio al mite Caranca o al furetto Rui Faria. Intanto di settimana a Barcellona addirittura stucchevole, sentivo Rudi Völler diceva dal bar Leverkusen quasi quasi vado da nostro sponsor, mi faccio dare cassa di aspirine quando vengo qua. Grande, no, io quello che ho detto, se hanno litigato per la maglia di Messi all'andata nel primo tempo, dico ci sarà stata la rissa al ritorno tra quelli del Bayern, no, sai che Feller si è anche arrabbiato perché due giocatori si sono messi lì a litigarsi la maglia di Messi già nell'intervallo, sì. Dico, dopo i 5 gol figuriamoci, comunque sì, stucchevole, però quello era un Bayern Leverkusen che aveva battuto il Bayern Monaco, insomma, che il Barcellona quando gioca. Oggi ha già fatto un altro gol Messi, quindi adesso siamo 32-29 in questa avvincente lotta per il Pichichi, sì, spagnolo, e niente, e vediamo, insomma, Messi farà, cioè, dei numeri incredibili. Penso che ne ha fatti Messi in una sera quanti Ibrahimovic incazzato in tutta la stagione di Champions League, 5 contro 5. Sì, possiamo anche dire anche Fernando Torres in più da quando è arrivato al Chelsea. Sì, sì, anche. Non è male, come... Anche. Voglio dire, lì è così, Messi è il migliore, no, anche è divertente pensare a Ronaldo, pensa a Ronaldo senza Messi, parleremo solo di Ronaldo. Beh certo, certo. Poveretto, è lì che c'ha questo così, sì, pulce. Comunque direi che anche nello stile i due mister e le due stelle si somigliano, Diavolo e acqua santa, cioè, manca solo adesso che Cristiano Ronaldo salti fuori a dire Messi io sono come te, tu sei come me. Esatto, non sarebbe male, però non lo dirà mai perché è troppo orgoglioso. Esatto. E forse, e non è dialetticamente preparato come il suo allenatore, e quindi non lo dirà mai, però sì, sono simili comunque, cioè, uno guarda solo al pallone, al gioco e al campo, l'altro invece guarda molto la tribuna, insomma, questa è un po' la differenza. Poi dopo entrambi vogliono vincere, però è così. In compenso abbiamo grandi polemiche anche qua, ieri sera di nuovo un rigore abbastanza palese per il Betis al 93esimo non dato, Real Madrid vince 3-2, questo vicepresidente del Barcellona che ammette che praticamente erano in buoni rapporti con gli arbitri e la cosa ha aiutato questo che è stato definito cainismo del Barcellona, no? Questo diciamo uccidersi tra fratelli, che è tipico, sì, che ha sempre fatto un po' la storia del club catalano, sì, e riaffiora nel momento più sbagliato, ovviamente, sì, però questo è tipico del club, insomma, sì, queste lotte, no, ma queste, ma poi sai Filippo, queste sono cose che capitano ad ogni latitudine, la differenza vera è come le prendi, cioè la differenza vera tra noi e te, tra noi e lì è come assumiamo queste informazioni, punto. No, certo, però ma questa fa parte della storia del Barcellona, insomma, è sempre stato un club fratricida, no? Per cui insomma, adesso è venuto fuori di nuovo perché La Porta odia Rosell, questo è un uomo di La Porta che parla contro la giunta attuale. Certo, questi sono giochi però, politici. Insomma, è interessante così, insomma, è chiaro che quest'anno, se uno deve guardare così in generale, agli arbitri hanno sicuramente favorito il Real Madrid e sfavorito in maniera clamorosa il Barcellona, però insomma, come dice Guardiola, ha detto tre volte, dice sono avanti 10 punti perché se lo sono meritato, e questo è quel che resta poi alla fine di tutto. Grazie Filippo, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, ciao, ciao. Allora, è ufficiale, esonerato, cambia allenatore di nuovo il Cagliari. Esonerato Ballardini, manca solo l'annuncio del ritorno di Ficcadenti, quindi ennesimo allenatore con l'elastico per Massimo Cellino. Alfredo da Ancona, poi Giacomo da Firenze, 800240024. Alfredo, dica. Buonasera, volevo parlare del fattore Nocerino del Milan. Fattore N. Fattore N. È fattore N perché ogni volta che tira riesce a sbrogliare subito la partita, perché c'è sempre qualcuno che gli dà la schiena di fronte, e questa è questione che la Juve invece non c'ha. Purtroppo 10 tiri in porta, non c'è nessuno che gliela devi, e c'ha adesso tanto il pari e traverse e via dicendo. Nocerino noi non ce l'abbiamo, ce l'avevamo, non ce l'abbiamo più. Cioè, che sì, Milan, sì, però nel momento, però aspetti, aspetti. Anche quel fattore lì a suo favore. Tutto un attimo, perché un'altra grande differenza è che nel girone d'andata un Nocerino più forte pure ce l'avevate anche voi, eh? Si chiamava Claudio Marchisio, che ogni inserimento faceva gol. E oggi non c'è riuscito. Volevo dire soltanto che probabilmente pure questo è l'anno del Milan, perché c'è il fattore che favorisce solo quella, la fortuna, anche tutto. Sì, sì, sì, questo in parte è vero. Vabbè, quando sei in testa alla classifica, sei bravo e fortunato, le cose ti girano bene, vale per il Milan come vale per la Juventus. Una delle altre chiavi di lettura, per l'appunto, in questa difficoltà bianconera è quella che ho appena detto, cioè la grande forza della Juventus nel girone d'andata, nel periodo di strisce lunghe di vittorie, stava proprio nel fatto che riusciva a trovare gol da giocatori non esattamente deputati a quel ruolo, e in particolare mi riferisco a Marchisio e allo stesso Pepe, che ne hanno segnati una valanga. Adesso quando queste cose tra virgolette eccezionali, cioè il centrocampista che ti fa la doppietta, non succedono, allora lì serve il peso degli attaccanti, e lì si vede, torno a ripeterlo per la millesima volta, il vero vizio capitale di questa Juventus, correggibile sul mercato con i soldi. Giacomo, Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, prima di tutto avevo chiamato per parlare dell'Inter, ma ruberei 30 secondi per fare un paio di considerazioni sulla Juve, che sto seguendo con molto interesse dall'inizio della stagione. Sì. Punto primo, ammiro molto Conte come allenatore, perché ha portato orgoglio, grinta alla Juventus, e a me piace il calcio, e la Juve quest'anno, a me personalmente, rispetto ai giocatori che ha, è molto piaciuta. Piace, sì, sì, ha un'identità, ha una sua fisionomia precisa, ha un suo modo di essere, di vivere. Indubbiamente, sì, però alcune considerazioni secondo me sono doverose sulla Juventus. Punto primo, un bravo a Conte che finalmente è riuscito a mettere da parte Del Piero. Lo dico perché secondo me Del Piero ha condizionato la Juventus negli ultimi due campionati in maniera pesante. Cioè, ha un passato importante, è un gran giocatore, però indubbiamente secondo me... cioè lei dice un po' la stessa maniera in cui i vecchi dell'Inter condizionano l'Inter? Esatto, e poi volevo arrivare a questo, infatti, questa è la mia considerazione. Quindi un bravo a Conte che ha avuto questa... Poi non mi è piaciuto il modo in cui è stato trattato Del Piero, e comunque non ci dimentichiamo, ha seguito la Juventus in Serie B e era una situazione comunque da apprezzare. Ma riguardo il cammino della Juventus fino a questo punto, due brevissime considerazioni. Punto primo, la Juventus ha giocatori che secondo la mia opinione stanno rendendo il 200% rispetto alle loro possibilità. Tipo Barzagli, Bonucci. Bonucci un po' meno. Lo stesso, un po' meno, però comunque sì, diciamo vicino al limite. Vicino al limite. Barzagli è stratosferico. Secondo me questo va oltre il miglior Barzagli, è un qualcosa, è l'anno di Barzagli. Beh, non a caso la Juventus è la difesa meno battuta. È Esatto, esatto. Poi vabbè, la Juventus è anche un gran portiere e questo naturale. È, fa gioco anche in questo senso. In secondo luogo, Vucinic, avete parlato a lungo di Vucinic stasera. Secondo me Vucinic non è quello della Roma semplicemente per il fatto che svolge dei compiti tattici che a Roma non svolgeva. Si fianca molto rispetto agli anni di Roma, insomma, cioè, voglio dire, al di là del fatto che gli possa mancare un Totti mancherebbe a chiunque, però ovviamente ho sentito fare complimenti da Ranieri stesso a Conte perché è riuscito a far fare il terzino a Vucinic. Sì, questo è vero. Tornando al paragone con l'Inter, ha vinto la Coppa dei Campioni facendo il terzino sinistro. Sì. Poi ha detto lo faccio stavolta, poi più mi riprendo il centro dell'attacco e ricomincio a fare gol tutte le partite. No, questa è una considerazione, Giacomo, questa è una considerazione molto, molto intelligente. È vero, Vucinic paga un lavoro fisico cui le esigenze della squadra lo costringono, per cui la brillantezza e la lucidità sotto porta viene a mancare. Insomma, un po' il discorso che si può fare per Robinho, voglio dire, a Robinho è stato chiesto di fare grosso modo il mediano, è diventato un giocatore tatticamente importantissimo per il Milan, poi certe volte sbaglia di quei gol che tu dici, ma il fenomeno brasiliano è tutto qua, bisogna tenere conto anche di queste cose. Vucinic fa 1000 km a partita, questo è certamente vero. Allora, con quello di Ballardini siamo a 15 esoneri in Serie A, mancano ancora 11 giornate, dunque la festa non è finita, ho l'impressione. Claudio, provincia di Bergamo. Pronto? Pronto? Sì, era proprio per quello che telefonavo. Dica. La prima roba perché non avete mai, non parlate quasi mai del Cagliari, cioè sì, quando andava bene, che quando non andava bene, cioè non va bene. Lo stiamo facendo ora insieme a lei? Sì, era una combinazione perché era una notizia di 30 secondi fa, me l'ho sentito alla TV. Ecco, sì. Volevo sentire un po' delle vostre impressioni sulla nata e sulla possibilità di salvezza del Cagliari. Ma il Cagliari si salva tranquillamente, così come si sarebbe salvato tranquillamente senza cambiare al solito tre allenatori, uno dei quali con l'elastico, che era stato esonerato secondo me senza alcuna ragione precisa e che ora senza alcuna ragione precisa viene richiamato. Il Cagliari ha giocato un ottimo mese di gennaio, adesso ha avuto un calo, ha perso alcune partite, sta vivendo come deve vivere un club come il Cagliari. Torna a ripetere, è una squadra che ha qualità e che la salvezza la centrerà secondo me senza alcun problema. Poi il fatto che ci sia questa fissa, questa necessità di cambiare continuamente allenatore, io non lo so, continuano a non capirla, ma probabilmente è il divertimento di Cellino che gioca in questo modo con il suo giocattolo. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Come si chiama? Era un monito a sentir parlare un po' anche di Cagliari, insomma. Sì, ma fa benissimo, ma certo. Perché oltre a Milan, Inter, Juve, certo. Roma, insomma, se si potesse parlare ancora. Si parla di Cagliari anche quando non gioca contro le suddette, insomma. Io invece saluto e ringrazio un campionissimo come Alberto Cova che... Ciao Alberto, come stai? Ciao. Come stai? Benissimo, grazie. Tra un po' ti sentiremo commentare i mondiali di atletica indoor su Eurosport. Mondiali di atletica indoor che, come hai visto, insomma, sono particolarmente importanti in prospettiva olimpica. Sì, anche se l'anno olimpico porta magari questi mondiali ad essere tecnicamente, diciamo, meno validi di altre edizioni, però poi quando gli atleti di vertice si presentano e soprattutto si presentano in forma, i risultati sono sempre eccezionali. Quindi anche in questo weekend ci siamo divertiti a vedere una bella atletica mondiale. Sì, con la signora Di Martino che continua sul suo cammino. Assolutamente sì, in una gara devo dire stranissima perché le misure non sono state alte e poi questa esclusione di massa alla misura di 1,98 che però ha permesso ad Antonietta di vincere la medaglia d'argento in concomitanza con altre due atlete, comunque sempre una bella medaglia. D'altra parte sai Alberto che queste atlete dobbiamo prenderle e metterle in freezer o sotto la campana di vetro, perché sai bene come a Londra, non come nelle ultime edizioni olimpiche, come ai mondiali, non è che abbiamo tutte ste carte da giocarci, ne abbiamo sempre di meno. sai, l'atletica italiana sicuramente non è più quella di una volta, deve scegliere appuntamenti che possano permettere ai giovani di crescere e a coloro che sono così vicino a vincere delle medaglie di vincerle in occasioni come questa dei mondiali indoor. Lasciamo stare Antonietta, che è di assoluto valore mondiale, quindi alle Olimpiadi avrà anche lei la possibilità di salire sul podio, ce lo auguriamo tutti, però gli altri atleti devono presentarsi a queste occasioni in piena forma, perché non avendo tutti gli avversari contro, almeno i più forti, c'è la possibilità di mettersi in evidenza, e mettendosi in evidenza anche in situazioni come i mondiali indoor vuol dire poi trovare anche la motivazione, certo, per entrare magari in altre manifestazioni con una, diciamo, in un'atmosfera diversa. Senti, tu che sensazioni hai davanti al ritorno dei morti viventi? Mi riferisco a Justin Gatlin, medaglia d'oro strepitosa ad Atene 2004, poi si scoprì che ha barato, lunga squalifica per il doping, stanno fuori molti anni e poi ritornano. Tu con che occhi guardi questi? Ma guarda, con degli occhi normali, perché hanno avuto la loro squalifica, hanno praticamente pagato la pena, così possiamo dire, e rientrano un pochino a testa bassa, ma probabilmente con una preparazione adeguata ad ottenere ancora dei risultati. Ora io non so se a livello olimpico riusciranno ancora a vincere delle medaglie, certo è che una chance o una seconda chance credo che sia giusto darla. Se lo dimostrano poi con i risultati, meglio ancora. Se lo dimostrano con i risultati, meglio ancora. Grazie Alberto. Grazie a te, grazie a tutti voi, buon lavoro. Un abbraccio, buon lavoro anche a te Alberto Cova. Dunque, noi siamo quasi in chiusura. Ah, tra l'altro, come sapete, alle 20:30 vi parleremo di basket, vi parleremo di All-Star Game. Oggi non c'è campionato. C'è l'All-Star Game a Pesaro che, anzi adesso vi do anche un parzialino per quanto possa contare il risultato di questa partita, cioè nulla. Come sapete è in campo la nazionale italiana che sta vincendo 56-39 contro la selezione dei migliori stranieri del nostro campionato. Ciò che ne resta, visti un sacco di defezioni, infortuni, eccetera, siamo ancora a 7:33 da giocare nel terzo quarto, poi ne parleremo insieme dalle 8:30 alle 9. Chiudiamo con Mimmo da Varese. Buonasera signor Genta. Buonasera, signor Mimmo, dica. Volevo sapere una cosa, in questi, una vostra considerazione pure un vostro giudizio. Io questi giorni mi sono messo su internet e guardavo conto ingaggio delle squadre in Italia e in Europa, vedendo il Milan primeggia in Italia, Manchester City primeggia in Inghilterra, sì, Bayern in Germania, Real Madrid e Barcellona seguivalgono e PSG in Francia, sì, sono tutte prime. È un dato casuale o una cosa... Cosa c'è di casuale? Cosa c'è, Mimmo, cosa c'è di casuale? A parte che oggi il City è stato superato dal Manchester United, che comunque di quattrini non ne spende pochi, mi sembra un dato anzi abbastanza banale, no? Chi mette più soldi nel giocattolo, chi mette più soldi nell'acquisto di giocatori, chi compra più stelle fa squadre più forti. E dunque primeggia, anche se Giorgio De Luca non si lascia sfuggire il fatto che nemmeno, non solo il City ma neanche il Bayern non è più primo nel suo campionato. Dunque la rivolta dei peones, no, ma è chiaro che questa è l'oligarchia delle squadre che partecipano con un'idea di vittoria alla Champions League, insomma. Poi possiamo innestare un lungo discorso e rileggere invece, oltre che su internet, ad esempio sulle pagine della Gazzetta, è stato pubblicato nei giorni scorsi questa inchiesta da brividi sui debiti del calcio italiano. Si arriverà ad un punto morto, si arriverà al punto in cui bisognerà in qualche caso dichiarare fallimento. Tanto noi ci fermiamo qui, Italia 58 All-Star 39, torniamo alle 20:30 per parlare di basket. Io per il momento ringrazio Giorgio De Luca per il lavoro in redazione e Filippo Aureggi in regia. Seduta aggiornata più tardi.